che in mostra vuole dare alla nostra città, ricordando di seguire anche gli incontri alla Certosa, ricordando poi che domani avremo uno speciale sul teatro con un appuntamento che è La Montagna Incantata, giunta al terzo episodio, che è la parte conclusiva, curato da Archivio Z, e ne sono molto contento perché le parti, oltre che di una bellezza eterogenea tra letteratura e tante altre sensazioni, danno la possibilità di emozionare e incuriosire un pubblico che anche nelle parti più difficili indubbiamente ha voglia di approfondire l'argomento o gli argomenti o gli spunti di riflessione portati da Archivio Z. Avremo questo incontro con Enrica San Giovanni e Gianluca Guidotti per la giornata di domani, di venerdì, in scena. Il tributo in particolare con l'arte, ricordate, il Breakfast Club nasce seguendo Palazzo dei Diamanti, seguendo Palazzo Roverella, Palazzo Reale a Milano, Ducale a Venezia, insomma diverse sono le sedi espositive, Magnani Rocca a Parma, la Fondazione Ragghianti a Lucca, eh. Certo, non avendo lacci e lacciuoli, la possibilità che mi viene data è di ricercare la grande qualità. Quest'anno un ritorno, finalmente una crescita di grande qualità a Bologna, per cui giustamente l'approfondimento va alla nostra città. Ciò non toglie che forse anche per questo che sono così provato, che non ho voluto trascurare, non ho ceduto nulla neanche per quanto riguarda le altre sedi espositive del Breakfast Club. Saranno e sono assolutamente presenti, e come, ci mancherebbe. Francesca Sinigaglia è la curatrice, giovane curatrice, a proposito di giovani protagonisti che hanno dato un motivo di crescita per l'arte nella nostra città e non solo. Curatrice e direttrice del Museo dell'Ottocento, il Lungo Ottocento a Bologna, ovviamente. Ecco, a proposito di progetti, altro da seguire, mi sono voluto soffermare su questo, dedicato a Mario De Maria, il Marius Pictor 1852-1924. Quindi la ricorrenza che riporta alla sua scomparsa, con la mostra Ombra Cara, che sarà prorogata per quanto riguarda appunto il percorso in mostra e la presenza al Museo dell'Ottocento. Lui è uno degli artisti che bolognesi che amo di più, è stato il primo simbolista a Bologna, con delle caratteristiche molto particolari, con delle caratteristiche intense, soprattutto per quanto riguarda il discorso di luce, di aspetto cromatico, di contenuti. Certamente ho voluto dare la colonna sonora con Don Byron, che tra chiaroscuri musicali è grande talento, lui clarinetto basso ma pluristrumentista, e polistrumentista, clarinetto basso ma di alto talento, direi. Allora cominciamo questa conversazione che abbiamo riportato con Francesca Sinigaglia nella specificità simbolista di Mario De Maria. Lui è il simbolista per quanto riguarda Bologna, è una corrente di cui ho grandissima passione. Dove troviamo il simbolismo nelle interpretazioni di De Maria? Allora, lui è molto particolare perché si forma all'Accademia di Belle Arti di Bologna, e lui per primo diceva fin da giovane: io avevo la testa più avanti delle mani. La testa più avanti delle mani significa che le opere di De Maria fin dall'inizio hanno qualcosa in più, che sono legate al simbolo. Il simbolo è legato alla luce. Lui riesce attraverso la luce a far parlare le opere, anche se all'inizio sembrano solo dei paesaggi, dei semplici paesaggi, ma ci sono sempre dei dettagli che sono scoperti dalla luce, che illumina magari la sottopanca di una tavola di un'osteria, che illumina la cancrena di un muro a Venezia. Insomma, questa luce trova un non detto, e questo è fondamentale, perché De Maria, come anche, devo dire, voglio citare Anna Mazzanti ed Elena Di Raddo, che hanno collaborato con me alla realizzazione di questa mostra, De Maria è quasi già un artista concettuale prima di tutti gli altri. Cioè, c'è il vero in Italia, il vero dei Macchiaioli, che è straordinario naturalmente, ma contemporaneamente abbiamo il simbolismo che dà un qualcosa di nuovo all'interno, un non detto, una visione che è solo dell'artista, ma che attraverso la luce viene palesata e lo spettatore la può appunto vedere e palesare. Il simbolismo è una corrente molto colta e nello stesso tempo non immediata. Artisti che attraverso il mito, il sacro, la luce, come De Maria, oppure alcuni riferimenti nel classicismo o altro, danno questa visione per chi va appunto a visitare, poter come giocare a trovare questi simboli. Quante opere troviamo in mostra? Allora, sono più di 70 opere ed è veramente la prima grande monografica con così tante opere, così tanto selezionate, e di cui veramente almeno metà sono inedite. Quindi abbiamo fatto anche, come sapete, insomma, io sono storica dell'arte, archivista, ci tengo tantissimo, uno straordinario lavoro sulle fonti per trovare, e anche un lavoro di ricognizione, no? Per trovare le opere che De Maria, ci tengo a dirlo, è rarissimo come pittore. E molte opere sono di collezioni pubbliche, quindi c'è stato anche un lavoro incredibile di prestiti istituzionali dalla GNAM di Roma, dalla GAM di Roma, dalla GAM di Milano, da Bruxelles addirittura. Quindi abbiamo veramente dei prestiti nazionali e internazionali. Questa è una mostra internazionale. Sezioni, percorsi? Allora, sono 8 sezioni che raccontano la vita di Mario De Maria e il percorso artistico. Io ci tengo molto, ormai mi conoscete, a parlare anche dell'uomo, non solo dell'artista, perché secondo me solamente far capire chi è chi sono questi personaggi, allora riusciamo a capire effettivamente la loro arte. Quindi sono 8 sezioni che raccontano da una parte l'arte, dall'altra parte appunto la vita di De Maria, dalla formazione al periodo romano, al periodo veneziano, quando lui fonda, ricordo, la Biennale di Venezia, fino alle prime biennali, il problema purtroppo della morte di Silvia, la figlia, che gli causa delle gravi problematiche appunto anche psicologiche, e poi il ritorno, la consacrazione ad artista più importante italiano nel 1909 con la sua grande personale e poi la morte a Bologna. Simbolismo, una delle correnti artistiche più affascinanti in assoluto, anche perché invita al dialogo con il visitatore nella ricerca di questi, tra virgolette, simboli che hanno delle attinenze colte tra letteratura, mito, sacralità, il sacro, anche il profano, la classicità. E chi più ne ha più ne metta, trovarla in un aspetto concettuale. Ecco, De Maria è uno dei pochi, trovarlo in un aspetto concettuale, come la luce da lui portata può celare, evidenziare, dare attenzione nei suoi lavori al valore aggiunto simbolista nell'arte. Ombra cara, la figlia che scompare per una banale peritonite, pensate. Cade in una gravissima depressione, saprà riprendere comunque i percorsi artistici. Ricorrono i 100 anni dalla scomparsa di Marius Pictor Mario De Maria. Dei cofondatori della Biennale di Venezia, e anche questo aspetto lo sottolineerei. Che uomo era? Era ironico, menefreghista, scaltro, ma allo stesso tempo, se vedeva di non avere seguito, eventualmente non gliene fregava niente, perché lui credeva nella sua arte e la celebrava, quindi non aveva problemi. Veniva spronato dai suoi amici, tra cui Vittore Grubis de Dragon, che è stato l'inventore del divisionismo, e avremo anche lui in mostra, tra l'altro. Avremo anche lui in mostra. Quindi ci sono comparazioni? Sì, certo, perché la mostra è un dialogo tra De Maria e Grubis, perché Grubis lo sosteneva. Grubis è stato anche colui che ha dato forma a Segantini, tra parentesi. Sì. Cioè, non è l'ultimo degli arrivati, ecco, ma... Si chiama così perché è un artista milanese, ma di origine magiare, ma è milanese doc, tanto che a Milano, alla GAM di Milano, c'è un politico meraviglioso di Grubis. E quindi è un dialogo tra loro due, ed è straordinario, ecco. E la mostra si concentra sulle loro parole, quindi io non esisto più. Io come storica dell'arte ho solo fatto un lavoro sulle fonti, questa volta solo. Tra virgolette. Solo. Va bene, sono 4 anni che trascrivo, ma va bene. E la mostra ci verrà raccontata da loro. Da loro. Sì, e vedo, scusa, ti intrattengo un attimo solo per L'ombra cara. Perché questo titolo? A proposito di luce. Perché è il titolo del ritratto che Vittore Grubis de Dragon fa alla figlia Silvia. Viene regalato, quest'opera viene regalata a De Maria per fare in modo che De Maria si riprendesse da questo suo questa sua debacle psicologica, ma allo stesso tempo avremo in mostra quest'opera che fa da chiave di volta a tutte le sezioni. Molto particolare anche l'allestimento, e poi allo stesso tempo ovviamente il titolo è legato ovviamente all'ombra di De Maria e alla luce, quindi certo. Era perfetto secondo me, insomma, spero che lo sia anche per voi. Ti ringrazio tantissimo. Grazie, ti auguro buona giornata. Buona mostra. piccola nota a proposito della nostra città e lungo 800, progetto secondo me meraviglioso che ha dato dei percorsi in sede espositive estese, diversificate, fino al 28 luglio, quindi qualche giorno ancora, però è giusto citare da Felice Giani a Luigi Serra, l'800 nelle collezioni della Fondazione Cassa di Risparmio è presso Palazzo Fava. Fino al 9 settembre è stata prorogata, 9 settembre, la personale di Mario De Maria, detto Marius Pictor, ombra cara, è presso il Museo dell'Ottocento a Bologna. Piazza San Michele, una piazzetta laterale, molto particolare anche la sede, oltre che la bellezza della sede espositiva, questa piccola ma grande bomboniera, che poi piccola non mica tanto piccola, grazie alla curatela e la direzione di Francesca Sinigaglia, come ho detto, con una Bologna che nell'arte riporta anche sedi espositive particolari ma dense di contenuti, così ho dato anche qualche aspetto logistico per quanto riguarda questa esposizione. Fino al 9 settembre, come abbiamo presentato invece fino al 29 settembre al Mambo per Kusmirowski nella Perso Anomalia. Sono le due esposizioni che ho voluto portare come rappresentative per quanto riguarda l'estate a Bologna nella rubrica In Mostra. Ovviamente seguite anche altre sedi espositive che meritano, la Pinacoteca, ecco i percorsi che sono e saranno nella Pinacoteca con la direzione di Maria Luisa Pacelli, i motivi di incontro e gli approfondimenti riprenderemo già dalla prossima stagione 2024-2025 con la rubrica In Mostra. Per l'attenzione per quest'ultima puntata In Mostra, ci troviamo domani per l'ultima puntata In Scena, Archivio Z Entroterre, con uno speciale su Archivio Z a proposito del terzo incontro dedicato alla montagna incantata. Vi auguro un buon giovedì, giornata contraddistinta dalla forza, qualche nuvolotto in cielo, ma pur sempre estate 2024. Dal vostro William Piana un buon ascolto, poi ricordo che a breve avremo Liberi Dentro, seguirà la rassegna stampa per la giornata odierna. A tutte e a tutti un buon ascolto e per domani puntuali alle ore 7 alle super mattiniere e super mattinieri dei 103.1. Un caloroso abbraccio, ciao!